Posso dire una cosa io? Ma mi sembra che l'intervento, più che la domanda, l'intervento che ha fatto il collega viticoltore prima abbia centrato un problema grossissimo. Io, oltre che allevare vacche, sono anche il vicepresidente della CIA qui di Milano e Lodi, quindi parlo con gli agricoltori. Il mio secondo mestiere è parlare con gli agricoltori dei problemi quotidiani. Il cui problema più grosso in questo momento, come ben sapete anche voi, è il reddito, no? Quindi una discussione come quella che abbiamo fatto stasera è una discussione da lunare o da Marte rispetto al nostro mondo, no? Questo non mi impedisce, pur affrontando, come ti dicevo, tutti i giorni un altro tipo di tematiche, di essere particolarmente contento comunque del fatto di vedere qui stasera, non lo so, 100, 150 giovani sostanzialmente, nella media, che nulla c'entrano con l'agricoltura, per la prima volta forse, o comunque in modo abbastanza serio, attento, sono poste di fronte a delle tematiche che non sono tematiche di settore, sono tematiche del futuro della nostra esistenza, nella sostanza, no? Ecco, concordo con te col fatto che se noi avessimo trasformato e trasferito soprattutto questo dibattito di stasera in una qualunque assemblea di agricoltori sarebbe venuta fuori una roba a melate sulla faccia. Però nello stesso tempo credo che nel contesto in cui si è sviluppata e nella dimensione che citava prima Paolo, cioè delle relazioni che vanno stabilite, è un passo avanti, no? È un momento di crescita comunque, quindi io per questo lo prendo, per questo gli do valore, e domani mattina parlerò di latte da un'altra parte.